Guarda, io credo che della riforma del catasto ci sia bisogno da molti anni, perché l'attuale, diciamo, sistema di valutazione degli immobili in Italia è una fonte di grandissime ingiustizie, perché può succedere, insomma, come succede anche a Bologna, per esempio, che appartamenti di lusso in centro storico abbiano poi un valore inferiore magari a quelle di una casa costruita recentemente a Ozzano dell'Emilia o addirittura sulla collina, dove, sulla montagna, dove invece i valori di mercato sono ovviamente molto inferiori. Dare una valutazione adesso su quelli che sono i propositi di Draghi ovviamente è complicato, perché ricordo a tutti stiamo parlando di una legge delega, quindi la legge delega si limita a dare, diciamo, indicazioni molto generiche al governo, che dovrà poi attuare i decreti legislativi. Saranno quelli, diciamo, quelli che ne renderanno realmente possibile un giudizio. Diciamo che rispetto alle prime dichiarazioni del Premier io sono non troppo, diciamo, soddisfatto, perché da un lato si tende a procrastinare molto nel tempo, cioè già si parla del 2026, e dall'altro si insiste con questa retorica stupida per cui nessuno pagherà di più e nessuno pagherà di meno, e a quel punto uno dice cosa la facciamo a fare. Il punto invece è proprio che c'è anche chi dovrà eventualmente pagare di più perché ha abitazione realmente di lusso, e c'è chi invece dovrebbe pagare di meno perché si scoprirà che in proporzione la sua casa vale molto meno di altri. Quindi, insomma, sembrano più rassicurazioni per mantenere la stabilità del governo che questioni, appunto, poi contenute nella legge. Sì, io credo che sia il solito tentativo, cioè dall'alto fare una cosa che va fatta, perché da un punto di vista tecnico è da anni che si chiede, lo chiede anche l'Europa, come usa dire, perché è un catasto adeguato, diciamo, è interesse di tutti. E dall'altro, però, visto che l'attuale maggioranza non ha una linea su questo, come su molte altre cose, si va a buttare in avanti la palla dell'attuazione, diciamo così, che invece sarebbe urgente, come tutte le cose che vanno a colpire le disuguaglianze in Italia, anche questa sarebbe una cosa urgente. Aggiungo peraltro che secondo me una riforma del catasto renderebbe però ancora più necessaria una riforma più generale dell'imposizione patrimoniale, come quella per esempio che noi proponiamo con la nostra Next Generation Tax, perché ancora di più i valori delle case, diciamo, aumentano anche da un punto di vista potenziale del fiscale, non si capisce perché chi abbia una seconda casa modesta debba pagare magari più di quanto paga ora e chi ha invece titoli azionari per la stessa cifra debba pagare poco o niente. Questa riforma potrebbe favorire poi, come dire, misure redistributive, poi dipende appunto da qual è poi la volontà politica che c'è nel applicarla in un certo modo o nell'altro. Ma certo, infatti si fa una grandissima confusione, cioè la riforma del catasto è necessaria perché redistribuisce proporzionalmente i pesi, cioè va, diciamo, a mettere anche da un punto di vista fiscale, va a risistemare da un punto di vista fiscale quello che è già evidente da un punto di vista economico, cioè che la mia casa vale 100 e la tua vale 200, e quindi è giusto che se c'è una tassa sulla casa tu paghi, diciamo, il doppio di me, mentre oggi può essere che i rapporti siano invertiti, la mia casa vale 100 per 200, ma in realtà io pago il doppio, no? Oggi succede questo perché appunto il catasto non è aggiornato. Fatto questo, che però è semplicemente la fotografia di come si distribuisce la ricchezza immobiliare in Italia, poi il tema di come la si tassa è tutto un altro tema, cioè, ad esempio sarebbe molto più equo, più che dire nessuno pagherà di più, nessuno pagherà di meno, se si dà per buono che tendenzialmente con la riforma del catasto raddoppino i valori, beh, allora basterebbe dimezzare l'aliquota, no? Ad esempio in questo modo una persona normale, diciamo, pagherebbe esattamente come adesso, ma se la sua casa in realtà era sottovalutata pagherà un po' di più. Però, ripeto, anche questo non è una cosa che mi soddisfi molto. Io penso che in questo paese si debba arrivare finalmente ad un'imposta patrimoniale unica e progressiva, e si debba invece evitare di continuare, diciamo, a tassare le diverse forme di ricchezza in modo totalmente diversificato come adesso.